Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sembra alla finestra, è vero, gente che fu riappasciata, gente bella, l'aria allegra, mogiosa e sediata. Non solo Montalbano. Andrea Camilleri, creatore del famoso commissario, non si esaurisce certo nei polizieschi. La sua produzione letteraria è vasta. A 92 anni Andrea Camilleri ha deciso di raccontare alcuni squarci della sua vita, alcuni già noti, altri inediti, molto personali. L'ha fatto nel volume Esercizi di memoria, pubblicato da Rizzoli. 23 racconti che sono 23 ricordi di vita vissuta. Ricordi che hanno a che fare con la famiglia, con gli studi durante la guerra e con le prime esperienze lavorative. E così, leggendo questo libro, scopriamo che merito anche di Camilleri se le ceneri di Pirandello sono tornate da Roma in Sicilia. Scopriamo che Camilleri avrebbe dovuto fare il regista di un film sotto la guida di Antonioni. Capiamo di più dell'insolito legame professionale che ebbe con Edoardo De Filippo. E allora diamo la parola ad Andrea Camilleri. Questo libro in realtà l'ho scritto per me stesso, cioè a dire, ho cercato di fermare sulla pagina alcune storie della mia vita, così, perché è arrivata a una certa età la memoria torna tutta, dei fatti antichi proprio, torna con più evidenza la memoria dei fatti accaduti tantissimi anni fa che non la memoria del giorno avanti. Torna con esattezza la memoria nei dettagli. Allora mi è venuto da scrivere alcune cose così che mi erano capitate. Poi ho detto, ma sto libro non interessa a nessuno, è inutile, e ho deciso di tenerlo nel cassetto. Se non che poi un giorno Valentina, la mia collaboratrice, mi ha detto, sarebbe bello se questo libro fosse così illustrato da alcuni illustratori importanti. La cosa mi è piaciuta, anche perché, avendo perduto la vista, il fatto che il mio libro fosse illustrato da illustratori che non vedrò mai mi ha divertito. Ecco perché l'ho dato alle stampe. A proposito della perdita della vista, lei ha dichiarato più volte che ormai detta i suoi libri a Valentina, che conosce il bigatese meglio di lei. In questo caso invece l'ha dettato ad un'altra persona. Ad un'altra persona, perché è una toscana alla quale non posso dettare in bigatese. E sempre a questo proposito scrive nella prefazione che una delle cose che le manca di più è proprio la visione dei colori, delle opere d'arte che lei ha amato particolarmente. Sì. Qual è quella che le fa più piacere ricordare? La Flagellazione di Piero. Sono riuscito una notte a ricostituirmela tutta e poi l'indomani ho chiesto se i colori che io ricordavo corrispondevano, e ho avuto proprio una felicità nel fatto che ancora ritengo nella memoria i colori di quella pittura. Questi racconti che ha raccolto in questo volume effettivamente si riferiscono molti alla sua infanzia e alla sua gioventù, diciamo, dalla fine degli anni 30, agli anni 40, agli anni 50. C'è stato un criterio con cui ha scelto questi 23 racconti? No. Nella memoria si sono selezionati da loro stessi. Cioè, è successa questa cosa curiosa, che io mi sono trovato, ero in vacanza in Toscana, e mi sono venuti in mente questi ricordi che affluivano proprio con una ricchezza. Allora ogni mattina dettavo un racconto. Sono 23 ricordi scritti in 23 giorni e non selezionati da me, selezionati dalla mia memoria. A proposito di questi racconti, ce ne sono naturalmente tanti, abbiamo detto sono 23. C'è un racconto in cui lei ricorda di quando era allievo regista all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e divideva l'appartamento con altri, con altri giovani. Sì, un appartamento che era frequentato da Patroni Griffi, Raffaele La Capria, Vittorio Gassman, insomma tutte persone destinate a diventare famose. Sì. E racconta un episodio molto divertente in cui a un certo punto il poeta Vincenzo Cardarelli viene disturbato dal vostro rumore. Ma perché Cardarelli abitava al piano di sotto, Noi la sera lì convenivamo tutti nei nostri appartamenti, venivano ragazze all'accademia, avevamo un grammofono e mettevamo a tutto volume, ballavamo. Questo povero poeta non riusciva la notte a prendere sonno con noi e allora usava bussare, dire per favore. Però lui soffriva di una malattia circolatoria per cui sentiva sempre freddo e arrivava, saliva su, capisci, a luna di notte imbacuccato in maniere stranissime, con coperte, cose eccetera. E io racconto l'episodio al quale ho assistito, che in pieno luglio lui attraversava Piazza del Popolo col cappotto, il cappello, una sorta di sciallino addosso, i guanti, e un autista di un camion, impazzito per il caldo, bloccò il camion, scese e l'aggredì. Proprio il povero Cardarelli, che non si rendeva conto del perché venisse assalito. Ecco, però nei confronti di voi giovani all'epoca non fu molto delicato? No, per niente, ma poi Cardarelli non era un buon carattere. Quindi ci insultò violentemente, diciamolo francamente. Però poi si trovò una via di mezzo, cominciò a mettersi il cotone nelle orecchie e ci sopportò un po' di più. Nella storia della sua vita, in questi 92 anni, il nome Elvira è particolarmente significativo, perché sua nonna si chiamava Elvira ed Elvira Sellerio è quella che poi ha iniziato a pubblicare i romanzi Montalbano e certo, così via. Ecco, sua nonna in particolar modo, si vede che c'è un ricordo molto bello in queste pagine. Che cosa ha rappresentato sua nonna, i suoi nonni, la sua famiglia e la casa? Che... Ma sai, io ho avuto un curiosissimo rapporto con questa nonna, nonna Elvira, che era la nonna materna, no? E io passavo mesi interi nella campagna dei nonni e lei, con la quale avevo un rapporto di confidenza bellissimo, non l'avevo quasi con mia madre questo rapporto, l'avevo con la nonna, è quella che mi aprì la fantasia, perché lei mi raccontava qualcosa che poi ho capito essere Alice nel Paese delle Meraviglie, che non appartiene alla nostra cultura. Lei l'aveva letto e me lo riraccontava, ma poi l'applicava nella vita di tutti i giorni. Noi andavamo a spasso per la campagna e lei mi presentava un grillo con nome e cognome, facendomene una breve storia e invitando me, incontrandomi, ti conto, un asino, a fare la storia di quell'asino. Proprio aprì la mia fantasia, ecco, io di questo le sono eternamente grato. Insomma, non Elvira ha acceso la sua fantasia, invece Elvira Sellerio poi ha fatto in modo che lei potesse comunicarla agli altri. La fantasia l'ha messa su carta, l'intesa con Elvira è stata qualche cosa che esulava anche dal rapporto scrittore-editore. Io sarei stato, ho sempre scritto, un amico di Elvira, anche se mi fossi occupato della vendita di frigoriferi. Poi, in più, io ero uno scrittore, lei una editrice, quindi il rapporto si è rafforzato, ma era un fatto, diciamo, di rapporto vero, di un'amicizia profonda, profondissima. Ci capivamo così con un battito di ciglia con Elvira. Attraverso questi ricordi personali si fa anche però un pezzo di storia del costume, dello spettacolo e della cultura italiana. Beh, inevitabile, il contesto è inevitabile. Se io parlo di Edoardo, di Antonioni, il contesto è inevitabile, parlare del cinema dell'epoca o del teatro dell'epoca. Ci sono diversi episodi che riguardano la censura che c'era negli anni 50 e 60, sia a livello di televisione che a livello di rappresentazioni teatrali. Sì. Che ricordo ha di quel periodo? Orrendo. È un periodo orrendo. Per esempio, parlo di un fatto che non parlo nel romanzo, io metto in scena il Pellicano di Strindberg. Si tratta di un classico, però il copione sono costretto a mandarlo alla censura. Il giorno della prova generale mi ritorna indietro il copione dicendo non rappresentabile, contrario ai valori della famiglia cattolica. E che facevi a questo punto? Avevi perso tempo, lavoro, l'impresario aveva perso quattrini. Era atroce la censura. La censura ha proprio, posso dirlo con assoluta sincerità, ha fatto scomparire autori italiani che avrebbero potuto segnare veramente un'epoca vera. Faccio un solo nome, Gennaro Pistilli. Pistilli era un grande autore napoletano, ma ha avuto sempre la censura contraria, irrappresentabile. E quindi, arrivato a un certo punto, quest'uomo si è richiuso in se stesso, ha finito. Capisce? La censura è la cosa più atroce che ci possa essere. La sua vita è stata anche segnata dalla politica. Lei giovanissimo entrò in quello che allora era il Partito Comunista. Ecco, in questi 92 anni come è cambiata la sua visione politica? Ma io sono rimasto comunista, sono cambiati gli altri. Cioè, io ho un'idea precisa, ormai irrealizzabile, che mi rimane dentro come i vecchi mammut, no? Una razza in via d'estinzione, però oggi di comunisti non ne vedo intorno a me. Sì, qualcuno, qualche ottuagenario, qualche nonagenario, così, che ancora, oh, bei tempi, però siamo una razza in via d'estinzione, appunto. Tra questi 23 racconti, devo dire, uno di quelli che mi è piaciuto di più è quello che ha intitolato La Fortuna. Diciamo rapidamente che lei un giorno, insomma, da ragazzino, da giovane, cadde in una specie di pozzo delle acque nere. Era un pozzo nero della casa, quindi mi trovai nel, diciamo, liquame, fino proprio a sicura alla bocca. Se aprivo bocca per chiedere aiuto avrei inghiottito. Mi salvai per combinazione da una morte atroce. Però la contadina che mi salvò assieme ad altri e che mi gettava addosso catini pieni d'acqua nel tentativo di pulirmi mi diceva è tutta fortuna, la merda porta fortuna. Beh, non ho avuto mica torto, povera donna, la mia vita in fondo è stata una vita fortunata. E infatti lo scrivi alla fine di questo racconto che è arrivato a 90 anni, insomma c'è l'epoca dei bilanci, lei ha avuto una vita felice in tutti i sensi, scrive nel matrimonio, nel lavoro, eccetera. C'è qualche rimpianto? No, sinceramente sono privo di rimpianti, quello che volevo fare l'ho fatto, posso avere sbagliato, indovinato, eccetera, però ho fatto sempre quello che volevo, non ho rimpianti. Quando si parla di Andrea Camilleri, allora negli ultimi anni viene subito in mente Montalbano, lo scrittore, però lei è stato regista teatrale, sceneggiatore, è stato delegato di produzione alla RAI per tanti anni, quindi responsabile di una serie di sceneggiati che all'epoca vennero trasmessi. Qual è la definizione di sé che le piace di più? Scrittore. Quello che mi piace di più come definizione è conta storie. Cioè sono un uomo che racconta storie, allo stesso modo come c'erano i cantastorie. Io non posso dire di essere un cantastorie perché sono stonato proprio a livelli mostruosi. Mi limito a raccontare storie. Da quando ha perso la vista, dicevamo prima, deve dettare i suoi libri, i suoi scritti. È cambiato qualcosa nel suo modo di narrare? No, nel modo di narrare no. È cambiato qualcosa nel modo di organizzare il racconto, perché una cosa è scrivere e una cosa è dettare. Però dopo un po' di esperienza sono riuscito a trovare un mio metodo per cui mi immagino i personaggi di cui sto narrando in una sorta di teatrino ideale, no? Di palcoscenico, e così riesco a localizzare i personaggi e a portarli meglio nella mia memoria, perché anche il dettare è un fatto di memoria. Fra i vari racconti, fra questi 23 racconti, c'è quello che ricorda il suo incontro-scontro, mettiamola così, con i briganti della banda Giuliano. Siamo nel 1944, stava cercando di raggiungere Palermo per fare un esame all'università. Di filosofia, sì. E lì incontrò un brigante insolito. No, sì, cioè venimmo fermati da due briganti della banda Giuliano, perché siccome il camion sul quale avevo chiesto ospitalità trasportava pesce fresco, loro si fecero dare da noi due cassette, ma non dare, li dovemmo portare noi al loro rifugio, l'autista e io. Il loro rifugio era una grotta illuminata da lampade a petrolio, e lì dentro c'era un altro brigante della banda Giuliano, molto anziano, con una lunga barba bianca, che cominciamo a parlare di filosofia con lui. Quanto seppi dopo, era un ex frate addirittura, che prima di farsi frate aveva studiato filosofia e poi era finito brigante. Un incontro indimenticabile. E le disse anche una frase precisa. Cioè che ecco, con Hegel mi sei trovato meglio. Per esempio. Io stavo studiando i presocratici noiosi. Mi disse no, la vera filosofia comincia con Schopenhauer, Kant, vedrai che con Hegel ti troverai meglio. E aveva ragione? Sì, aveva ragione, ma detto da un bandito che ha tra le gambe un mitra, era un discorso un pochino assurdo, metafisico dentro quella grotta, bellissimo, indimenticabile. Il cantastorie Andrea Camilleri ha sempre tante idee da mettere su carta, da raccontare. Cos'è che le piacerebbe ancora scrivere? Dice, questa cosa io non l'ho ancora scritta. Beh, avverrà. C'ho tante cose che non ho ancora scritte. Spero di avere abbastanza ancora davanti a me qualche anno e la lucidità per poter scrivere ancora delle cose che devo raccontare. Questo era Andrea Camilleri che ci ha parlato di Esercizi di memoria, pubblicato da Rizzoli. Una breve pausa e poi parleremo ancora. Il cacciatore di libri. Emma è una giornalista di costume che lavora in una rivista un po' in crisi, infatti si profila il licenziamento di alcuni colleghi. Si trova coinvolta, suo malgrado, in un caso di cronaca nera, la scomparsa di uno scrittore famoso, Pietro Severi, con il quale lei stessa aveva avuto anni prima una relazione tenuta segreta. Il giorno della scomparsa, Emma riceve per posta un manoscritto dello scrittore in cui si racconta la storia di un padre e di un figlio, di un padre particolarmente violento. Queste sono le coordinate GPS del romanzo Nessuna notizia dello scrittore scomparso, scritto da Daniele Bresciani, pubblicato da Garzanti. Daniele Bresciani, giornalista, ha lavorato per anni alla Gazzetta dello Sport, a Vanity Fair, a Grazia, quindi diciamo che conosce molto bene il mondo delle redazioni giornalistiche e devo dire che ha costruito un giallo veramente appassionante. Sentiamolo. Emma è una giornalista di un settimanale femminile e proprio mi divertiva l'idea che fosse non una giornalista abituata alla cronaca nera, a indagare, ma una che di solito si occupa di spettacoli, di cantanti, di cose, di argomenti leggeri. Però ciò nonostante è una persona molto, molto retta, molto pulita, in un mondo che sta cambiando molto, che è quello dei giornali. Questo è lo scenario in cui si muove Emma. Nella vita di Emma iniziano ad accadere delle cose strane. Beh, innanzitutto c'è la notizia di questo scrittore, Pietro Severi, uno scrittore famoso che ormai viveva in Inghilterra, che è scomparso. Lei aveva avuto una relazione sentimentale con lui, ma all'inizio non lo dice, diciamo, lo tiene nascosto. E c'è anche un altro episodio che la turba, perché un giorno torna a casa e vede succede che qualcuno è entrato a casa sua, l'ha messa a soqquadro, di fatto ha portato via solo una fotografia. Da questo momento iniziano ad accaderle tutte una serie di cose. Com'è che Emma viene coinvolta lentamente in questo caso? Sì, Emma torna a casa e trova la casa sottosopra e si accorge che non manca niente, non manca niente di valore. Non trova più questa fotografia ed è una fotografia che ritrae due bambini. Uno dei due è Pietro Severi, lo scrittore che è scomparso. Ma lì per lì Emma pensa semplicemente che la foto sia finita sotto qualche mobile, che non si trovi. Invece la foto è proprio scomparsa, come lo scrittore. E piano piano Emma si accorge che c'è qualcosa, si accorge della presenza di qualcuno, si accorge che qualcosa sta cambiando, che cominciano ad accaderle delle strane vicende. Lentamente viene inghiottita da questa ricerca, e una ricerca che forse inizialmente non pensa neanche di dover fare, no? Poi, un po' perché comunque con Pietro aveva avuto un legame importante e un po' perché sente il dovere professionale di occuparsene, rimane coinvolta fino alla fine, fino a quello che il lettore, se vorrà, scoprirà. Dal punto di vista della trama gialla possiamo dire che questo è un romanzo diesel. Perché inizia così lentamente con la notizia della scomparsa di questo scrittore, Emma subisce questo furto in casa e così via? Però lentamente si iniziano a intrecciare tante altre vicende, una sorta di romanzo nel romanzo, perché, questo lo possiamo dire, viene trovato un testo scritto da questo scrittore che è scomparso, Pietro Severi, che è un testo piuttosto forte, che racconta anche qui di cose piuttosto toste, possiamo dire così senza dire troppo? Sì, nel romanzo è intervallato da storie, brevi storie che il lettore dovrà interpretare. La mia intenzione era quella di lasciare il lettore con il dubbio. Sono storie vere o è un romanzo nel romanzo? Sono racconti di fantasia oppure sono situazioni reali raccontate da qualcuno e non si sa bene chi? Così anche quando Emma riceve lo scritto di Pietro, riceve un po' di alcune pagine da Pietro, dopo che si è saputo della sua scomparsa, Pietro è come se raccontasse della sua infanzia, ma racconta qualcosa che Emma non sa, e soprattutto racconta di un padre terribile. E Emma si chiede, ma questo è vero o è fantasia? È l'inizio di un nuovo romanzo o lui mi sta dicendo qualcosa e quindi io lo devo andare a cercare veramente? Questo era Daniele Bresciani, ora in libreria con Nessuna notizia dello scrittore scomparso, pubblicato da Garzanti. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberta Frisani, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, cliccando nella sezione Programmi e poi su Il Cacciatore di Libri. Se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter e sulla pagina ufficiale del programma su Facebook, Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.